Quella che si trova in questa scatola è una storia che parla di amore. Di quegli amori che si trovano nei libri o nei film. Quelli che quando ti capitano devi avere la capacità di riconoscerli, il coraggio di afferrarli, non lasciarli scivolare via. Altrimenti l'alternativa è sigillarli in una scatola a vita. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16 e 7 minuti, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Un uomo sta risalendo a fatica un vecchio sentiero, un sentiero per contrabbandieri, sui Pirenei orientali. Cammina lento, ogni 10 minuti compie una pausa di un minuto. Con sé una vecchia valigia in pelle nera, molto pesante. Quando la sua accompagnatrice gli chiede che cosa contenga quella borsa, lui risponde: «Contiene il mio ultimo manoscritto. Questa borsa è più importante della mia vita. Non posso permettere che vada perduta». Quell'uomo è Walter Benjamin, filosofo ebreo tedesco in fuga dal nazismo. Sta passando clandestinamente il confine tra Francia e Spagna. Il giorno dopo viene arrestato a Portbou. Quella stessa notte viene trovato morto nella sua stanza. Della sua valigia, nessuna traccia. Quella valigia poi si scoprirà anni dopo che conteneva queste cose. Conteneva il suo manoscritto, che però non è mai stato ritrovato. 6 fotografie, della morfina, un orologio da polso, dei soldi, spariti anche quelli, e un paio di occhiali di riserva. Questo accadeva alla fine di settembre del 1940. Poi quest'estate, il 3 luglio del 2010, 70 anni dopo, 10 persone si sono messe a camminare a piedi lungo lo stesso sentiero. Sono partiti da Port Vendre, si sono accampati ai piedi dei Pirenei, hanno suonato il violoncello, hanno sotterrato una vecchia valigia, hanno passato la notte e si sono raccontati delle storie. Il giorno dopo, proprio come Benjamin, sono arrivati a Portbou. Questo è stato il Benjamin Briefcase Project. In quella valigia, quella che loro hanno sotterrato, là dove si era accampato la notte Walter Benjamin, però 70 anni prima, queste 10 persone l'hanno riempita mettendoci degli oggetti. Esther ci ha messo dell'acqua e un accendino, Sal del tabacco. Francesco ci ha infilato il supereroe di ceramica di quando era bambino, George la sua prima macchina fotografica. Kaik ci ha messo una piccola pietra, Leila una canzone e il suo certificato. Lilian dei fazzoletti, Tiziano il suo iPod con tutta la musica ascoltata finora. Irene ci ha infilato un romanzo, Simone un asciugamano, Jem ha cantato un vecchio canto flamenco, Mar ci ha messo delle candele, Carola una tazza da campeggio, Maria una torcia elettrica. Ora questa valigia con tutte queste cose è là sopra, nel prato dove loro si sono accampate per la notte. Se volete trovare quella valigia, se volete infilarci anche voi qualcosa, la trovate a queste coordinate. Sono 42 gradi e 27 primi latitudine nord, 3 gradi e 7 primi longitudine est. Questa invece è Radio 24, sono le 16 e 10 minuti. Quella che vi ho raccontato è stata una storia che mi ha raccontato Tiziano Bonini, me l'aveva già raccontata quest'estate, poco prima che finisse Vendo Tutto, perché questo è accaduto mi pare il giorno dopo che avevamo finito il programma. Tiziano e dei suoi amici, conoscendo la storia di Walter Benjamin, che era questo filosofo che per scappare dal nazismo aveva percorso questo sentiero portandosi dietro una valigia, hanno deciso di ripercorrere quel sentiero e sono portati dietro anche loro una valigia, solo che poi quella valigia l'hanno sotterrata. Ed è sotterrata in quel punto lì dove ci sono le coordinate che vi ho dato. Magari poi le carico su Facebook, così se qualcuno voglia andarsela a vedere. Ma c'è anche il link al blog che avevano creato. Poi lo mettiamo tutto sul profilo Facebook del programma, così trovate meglio i dettagli di questa storia che vi ho appena raccontato. Perché ve l'ho raccontata? Perché questa storia è tornata fuori dopo che Tiziano me ne aveva già parlato quest'estate, per quello che mi è successo la scorsa notte, quando cioè io ho trovato una scatola in casa mia, esattamente per l'esattezza sotto le piastrelle del bagno di casa mia. È una cosa assurda, lo so, è stata assurda la situazione in cui mi sono trovato, però non è stato assurdo quello che io ho trovato all'interno di questa scatola. E ieri sera, pensandoci e scoprendo poi che cosa c'era in quella scatola, e ve lo racconterò a breve, poi ho chiamato Tiziano ieri notte e ci siamo trovati a parlare proprio di che cosa si metterebbe in una scatola che racconta qualcosa di noi, che qualcun altro trova a distanza di anni, nel mio caso 50, perché poi ve lo racconto, la scatola risale a metà degli anni 60. Ma voi, in questo momento, facciamo gioco che facciamo di solito. Qualsiasi cosa stiate facendo, se state guidando magari ci avete un pochettino più di facilità, se state lavorando vi fermate un attimo, provate a pensare a 5 cose, non di più, altrimenti poi andiamo nel casino. Pensate ad una scatola vuota che dovete riempire con 5 cose che raccontino qualcosa di voi, della vostra vita. Le cose che vi sono piaciute di più, ma anche quelle che non vi sono piaciute, le cose che avete vissuto, quelle che avreste voluto vivere, qualcosa che riguarda i vostri figli, che riguarda i vostri genitori, comunque qualcosa che racconti di voi a una persona che non conoscete, che tra 50 anni trova quella scatola. 800240024 oppure 349-238-6666. Questo gioco ho cominciato a farlo su Facebook, come faccio abitualmente prima del programma, e sono arrivati un fottio di messaggi. Uso la parola fottio non a caso, perché non riesco a leggerli tutti, ve ne leggo solo alcuni. Sono proprio, è un elenco di 5 cose da infilare in una scatola. Marco, ad esempio, la mia agenda fittissima di ogni appunto, utile e inutile, la divisa della scuola militare, la mia maglietta preferita, la mia bicicletta, il mio CD preferito. Christian, i miei diari, un cacciavite, una scatola di fiammiferi, un barattolo di Nutella, Delitto e Castigo di Dostoevsky. Valentina, un libro di John Fante, un DVD di Colazione da Tiffany, uno ski pass di Courmayeur, un ciuccio di uno dei miei 3 figli, la mia fede matrimoniale comprata da Tiffany. Chiara ci metterebbe in quella scatola un dizionario, una racchetta da tennis, una pizza, un biglietto aereo, una foglia d'acero. Mauro ci metterebbe degli oggetti e poi ci spiega anche il perché. Una macchina fotografica con cui mi esprimo, una maglietta da ciclista con cui mi sfogo, il libro In un milione di piccoli pezzi di James Frey che mi ha insegnato a sperare, un lungo capello biondo di lei che non c'è più, 5, una foglia secca, la malinconia. 800240024 oppure 349-238-6666. Ci mettete 30 secondi, un minuto, magari due. Pensate a 5 cose che infilereste in una scatola per raccontare qualcosa di voi a qualcuno che la trova tra 50 anni. 800240024 349-238-6666. Ieri notte io, quella scatola che non era mia, 50 anni dopo l'ho aperta. Tutti quanti almeno una volta nella vita abbiamo guardato dentro ad una scatola piena di ricordi di un amico, di un parente, di uno sconosciuto. A volte erano scatole create apposta per tramandare delle memorie. Altre invece erano degli scatoloni che erano pieni di roba da portare da una casa ad un'altra durante un trasloco. E altre erano dei cassetti magari che abbiamo aperto anche se non avremmo dovuto farlo. C'è stato un periodo della mia vita in cui io ero terribilmente attratto dalle vite degli altri, al punto da cercare le loro cose nascoste. E ancora oggi, quando sono ospite da un amico e mi trovo la notte da solo nella stanza in cui mi fa dormire, o meglio ancora, se lui non è in casa e mi ha lasciato le chiavi. Insomma, la tentazione di aprire dei cassetti e degli armadi è fortissima. Infilarsi nelle pieghe della vita di una persona è la cosa più morbosamente interessante che ci sia, c'è poco da fare. Mica per niente, poi, è quello che fanno la letteratura e il cinema da sempre, che poi hanno iniziato a fare in modo un po' più prosaico la televisione e anche la stampa. Non capisco se tutto ciò ha a che fare con il desiderio di ritrovare anche negli altri gli stessi difetti, le stesse qualità, le stesse paure, le perversioni o gli amori, insomma le stesse cose che abbiamo noi. Non voglio giustificare la mia curiosità. Quella è una cosa che si ha oppure non la si ha. E se la si ha, ce la si tiene, magari si cerca di controllarla. E infatti io non guardo più nei cassetti delle persone che mi ospitano o non vado a guardare i messaggi sui telefonini delle mie fidanzate. Però, immaginate di trovare in casa vostra una scatola di metallo, di quelle in cui di solito le nonne tengono il necessario per il cucito. Immaginate di trovarla per caso una notte mentre cercate di tappare una falla che si è aperta sotto la tazza del vostro bagno. Che a raccontarla così sembra una storia assurda, ma proprio perché è assurda è da raccontare. Eppure, dopo che sono riuscito a evitare di affogare nel bagno di casa mia, e l'ho fatto semplicemente chiudendo il rubinetto dell'acqua, come qualcuno gentilmente mi aveva suggerito, dopo aver fatto venire l'idraulico che ha cambiato i tubi, mi ha sparato 180 euro per il lavoro, ieri sera io mi sono trovato da solo con questa scatola. Ora, io lo sapevo che la casa in cui vivevo era stata abitata già da qualcuno, come capita sempre quando si fa a vivere in case che non siano costruite da poco. Però di solito uno ci entra con la casa vuota, no? O al massimo con qualche mobile a cui il padrone di casa non era particolarmente affezionato e quindi lo lascia lì, alla mercé del primo inquilino che ci capiterà dentro. Però trovare un oggetto che è stato nascosto è un'altra cosa. È la stessa differenza che corre tra osservare una persona in pubblico e guardarla nei momenti della sua vita in cui pensa di non essere osservata. È terribilmente affascinante, ma può essere anche spaventoso, perché spesso in quelle pieghe lì si trovano cose che era meglio non vedere. Ecco perché quella scatola lì io non l'ho aperta subito. Ci ho messo un giorno intero e poi non ce l'ho più fatta. E quindi l'ho aperta. contenuto della scatola risale a un periodo imprecisato, che sta a metà degli anni 60. All'interno non c'è un filo di polvere, che ogni volta che apro le scatole mi domando come sia possibile. In compenso però dentro c'è un odore misto di metallo arrugginito e carta che sta ammuffendo. Forse perché quello che c'è dentro è per lo più fatto di carta. Ieri sera erano più o meno le 11 passate e ho aperto la scatola. Dunque, è lunedì 8 novembre del 2010, sono passate le 11. Ho in mano la scatola che ho trovato nelle piastrelle del mio bagno. Credo sia una scatola di biscotti, di quelle in latta che non fanno più. L'apro. Allora, carta per lo più. Lettere, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lettere. Tutta intestata alla terza persona, che è una donna e che si chiama Agata. E poi abbiamo foto, saranno una ventina di foto, in cui per lo più ci sono un uomo e una donna. Sono tutte in bianco e nero e sono sempre loro due. Sono davanti al mare, sono sul lungomare di una città, direi. Sì, sono sul lungomare di una città italiana, è una grande città. Sono vestiti eleganti, direi. Lei è castana, ha delle labbra molto segnate ed è sempre sorridente nelle foto. In questa foto in particolare loro sono davanti a un castello, cioè c'è un castello sul mare e loro danno le spalle al castello, cioè e al mare. Lui invece è grosso, lui è un ragazzone. È scuro, ha i capelli anche lui castani, però molto più scuri di lei. E ha un modo di stringerla che è proprio... che è protettivo, è quasi commovente. In tutte le foto lui la stringe in questo modo. E poi abbiamo... ancora... queste sono foglie, appunti... una cartolina... sempre per Agata... E sempre nei miei pensieri. Tuo Vincenzo. Agata e Vincenzo. Sarà tutto risalente agli anni 60, direi. Cioè, la carta infatti c'è un odore strano. E poi c'è una busta invece che non ha francobollo. Una busta aperta ed è indirizzata a un uomo. Vincenzo, salita Monte Calvario 24 Napoli. È una scrittura da donna questa. Caro Vincenzo, ti scrivo questa lettera che è l'ultima lettera che ti scrivo. Avrei dovuto scrivertela con molto anticipo. Ora però ho avuto il coraggio di farlo. Insomma, quella che si trova in questa scatola è una storia che parla di un amore. Di quegli amori che si trovano nei libri o nei film. Quelli che quando ti capitano nella vita devi avere la capacità di riconoscerli e il coraggio di afferrarli. E non lasciarli scivolare via, altrimenti l'alternativa poi è sigillarli in una scatola a vita. Sono stato sveglio tutta la notte a leggere quelle lettere, a guardare e riguardare quelle foto. Ormai sono talmente abituato a vedere e leggere storie create da qualcuno che mi sembrava impossibile avere tra le mani una storia così cristallina. E come tutte le storie d'amore che hanno a che fare con la purezza, hanno anche a che fare con le maledizioni. La storia tra Agata e Vincenzo è stata una storia clandestina. Dalle loro lettere non ho capito proprio tutto, ma quanto basta, direi. Dunque, Agata era la moglie del falegname che viveva nella casa in cui abito io. Ci viveva con lui, con i due figli, due gemelli. Aveva circa 30 anni quando ha incontrato Vincenzo. L'ha incontrato qui a Milano. Lui era qui per lavoro. Le parole di Vincenzo sono quelle di un uomo disarmato. Un uomo disarmato contro un amore a cui non riesce a fare fronte. E c'è tutto nelle sue lettere. C'è la gioia, c'è il tormento, c'è la leggerezza di chi cammina senza toccare terra. Ma soprattutto c'è proprio la sorpresa. C'è la sorpresa di trovarsi con un amore nuovo per le mani ad un'età inaspettata. 35 anni. Siamo alla fine degli anni 50, Vincenzo ha famiglia a Napoli. Anche lui, come Agata, ce l'ha a Milano, nella casa in cui vivo ora. E la sorpresa di Vincenzo è quasi abbagliante per come si presenta un giorno, così, per caso. E quel giorno, quando la incontra, quel giorno è talmente nuovo che sembra il primo. Non lo so perché, forse perché ogni innamoramento è un po' come se fosse il primo, no? Si dice che il primo amore sia uno solo e ce lo si ricordi per sempre, però l'innamoramento, fortunatamente quello no. Cioè è come se l'amore soffrisse di disturbi alla memoria a breve termine, dei disturbi per cui i ricordi dell'innamoramento si cancellano dopo averli provati. È come se la forza dell'abitudine non riuscisse ad intaccare quel vortice che quando arriva, arriva e basta, e ti travolge. Come se non riuscisse a placarlo, anche se si ripete più volte nell'arco di una vita. In fondo tutti si innamorano per la prima volta, ogni volta che si innamorano. Perché innamorarsi non è come mangiare una fetta di tiramisù. Non ti ci puoi assuefare. Quello che però traspare dalle lettere di Vincenzo è che questo amore, che sembra il primo, sarà sicuramente l'ultimo. L'ultima donna che avremo, se non è bella fa niente, se buffa grassa vedremo, se resta seria o se mai insieme a noi si sganasce, arri e re. Su questa vita bagascia, su questa vita che va, su questa vita che va. C'erano 12 lettere nella scatola però, non 11. 11 erano quelle che Vincenzo aveva scritto ad Agata. Una invece l'aveva scritta Agata a Vincenzo, ma non l'aveva mai spedita. La sensazione che ho è che quella sia stata la lettera con cui lei ha sigillato quella storia dentro questa scatola. Ora, io non credo che sia il caso di leggere quella lettera. È troppo personale, sembra quasi definitiva, e il fatto che lei non l'abbia mai spedita credo che abbia un significato che sfugge perfino alla sua volontà. In questa lettera però si parla di un amore, si parla di una gravidanza e si parla di una fine. E da quando io ho aperto questa scatola qui, da ieri sera, io sono tormentato. Sono tormentato dalle sorti di questa storia, dalle sorti di Agata e di Vincenzo, ma soprattutto dal contenuto di questa scatola. Cioè, in fondo sembra che in questa scatola ci sia, se non tutta la vita di questa donna, almeno la parte più importante. Ecco, e da ieri io mi domando, che cosa chiuderei io in una scatola se volessi che chi la apre sapesse qualcosa di me, della mia vita? Provate anche voi. Cercate di immaginare di avere una scatola, di doverci infilare 5 pezzi importanti della vostra esistenza. Una lettera, un biglietto aereo, un capo d'abbigliamento, le chiavi di una casa. 5 oggetti che vi definiscano e che raccontino di voi alla persona che dovesse ritrovare quella scatola. Quando io ho aperto questa scatola di latta ieri notte mi sono sentito parte della vita di Agata. Un po' come se la stessi vivendo dal primo giorno, da quello più importante. E io non so com'è, ma mi sono convinto di doverla cercare, per restituirle quel tempo che era chiuso qui dentro. Non so, c'è chi dice che nella propria vita si possono amare diverse persone ma ci si innamora davvero una volta sola. Io non lo so se è così. So però che mi ricordo benissimo come stavo il giorno in cui io ho incontrato le persone di cui mi sono innamorato. E mi ricordo che quel giorno era come se fossi rinato. Sì, è proprio così. Ogni innamoramento è il primo giorno della nostra vita. È stato così anche per queste 2 persone chiuse in questa scatola. E io le voglio tirare fuori da lì. (800) 24 0024 oppure 349 238 6666. 5 cose da infilare in una scatola, come tutti quelli che ci hanno scritti, come Pasquale: un mazzo di chiavi per automobile, un vecchio PC portatile, una ricetrasmittente, un biglietto usato di una nave che fa le rotte per la Sardegna e una maglietta della ditta per cui lavoro. 5 cose. Simona: un diario, un lettore MP3, il libro Il Profeta di Gibran, un film A piedi nudi nel parco, lo spazzolino da denti. 5 cose. Arianna: una mia foto con i miei cari, un'altra scattata in montagna, l'iPhone con tutte le telefonate e i messaggi, un lettore MP3 con playlist e podcast, il libro Il Sergente nella neve. 800240024 349 238 6666. Avete una scatola davanti a voi, riempitela di 5 cose e raccontatemele. Dopo la borsa, io sono qui. Io sono qui. Nella foto siamo in una cucina. Siamo in una cucina insieme a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 persone. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 persone. Però se ne vedono solo 4 nitidamente. Sono 4 donne. Sono 4 signore, tutte 4 con un bel grembiule. E davanti a sé, sul bancone di questa cucina, ci sono dei bicchieri. Sono più delle coppette di vetro. E delle insalatiere di panna montata bianca. Ce ne sono 3. Una è stracolma, le altre sono state svuotate. E la signora che è proprio di fronte all'obiettivo, con un grembiule a righe, una bella faccia simpatica e anche un po' paonazza, ha in mano quella cosa che si spreme per fare i ghirigori con la panna montata, non so come si chiami, però avrete capito, c'è in tutte le pasticcerie, e sta riempiendo uno ad uno tutte le coppette. Yasmin Sozzi, ho 54 anni e l'unico posto dove voglio stare in questo momento della mia vita, in cucina, con un sac à poche carico di meringa all'italiana che verrà poi gratinato con il cannello. Io sono qui. 349-238-6666 800-24-0024. Io invece sono qui e insieme a me ci sono ormai centinaia di oggetti da riempire e da infilare in centinaia di scatole, direi, dai messaggi e dalle telefonate che sono arrivate. Quindi ora li leggo e le sento tutti quelli che hanno chiamato. Solo un piccolo accorgimento, visto che giustamente siamo anche una radio che fa attenzione ai dettagli: non si dice Walter Benjamin, è vero, Caccia, si dice Walter Benjamin. Grazie a Tiziano Bonini, ma grazie soprattutto agli ascoltatori che subito ce l'hanno fatto notare e che parlavano perfettamente tedesco. 800240024 349-238-6666. Io l'ho trovata questa notte, anzi l'ho trovata ieri notte, questa notte l'ho aperta. Una scatola con dentro degli oggetti che me l'ha raccontato della vita di due persone in realtà, avvenute e successe 50 anni fa. Se però voi aveste una scatola da riempire con 5 oggetti, che cosa ci mettereste dentro? Marco da Vicenza: una scatola di profilattici, una stecca di Marlboro, un fiasco di Cabernet, un libro di Bukowski e un gonfalone di San Marco. Marco, Vicenza: la prima foto di me e di mio figlio al mare, una castagna delle mie montagne piemontesi, la sciarpa della mia Fiorentina, il libro sull'omicidio di Guido Rossa, una pallina di pane come quelle che si usano a pesca, Piero da Firenze, e poi ancora una foto con mia moglie, una con mia madre, un paio di scarpe da ginnastica, Opinione di un clown di Henrik Boll, e infine una radio. Andiamo però a sentire le persone che sono al telefono, quindi Alessandro dalla provincia di Sassari. Ciao Alessandro. Ciao. Mi dici subito quali sono le 5 cose che metteresti nella scatola? Anch'io, opinioni di un clown di Henrik Boll, Cecità. Wow. Cecità di Saramago, sì. Il biberon di mia figlia, sì. Una catenina con un ciondolo che in questo momento ho al collo, e poi avevo pensato delle foto, ma metto l'hard disk direttamente nel computer. Perché c'è dentro tutto? Sì. Grazie mille Alessandro, buona giornata. Ciao alla ciao. Prossima. Andiamo a Livorno da Antonio. Pronto Antonio? Ciao Matteo, buonasera. Ciao, buonasera a te, come stai? Io molto bene, molto bene. Bene, lo sento. Dimmi le 5 cose che metti nella tua scatola. Io metterei senz'altro, allora, un libro inteso come qualunque libro, ecco, proprio come oggetto da leggere. Un libro, ok. Poi uno specifico libro, che è la Bibbia. Ok, e due. Poi un sigaro fumato a metà. Da te. È importante il fatto che sia fumato a metà, dal senso del vissuto. Ok, e tre, poi? E poi un disco di Bob Rondelli, il mitico Bob Rondelli. Bob Rondelli, cantante, un cantante livornese. Livornese. Sì. Dimmi il titolo di una canzone. Guarda, aspetta, mi sfugge. Non ci viene in mente adesso, fa niente. Però sono... Per amor del cielo, per amor del per cielo. Amor del cielo, grazie mille. Grazie Antonio, ciao, buona giornata. E poi no, manca il quinto. Manca il quinto, giusto, siamo a 4. Manca il quinto. Allora, un berretto di lana della Reggia Marina. A cui hai partecipato? A cui faccio ancora parte. Sei un marinaio? Sì. Ma sei un militare? Sono un militare. Ma a che grado sei? Io sono un maresciallo di prima classe. Quindi sei imbarcato, Antonio? No, non più ormai, ho già dato. Però ciò non toglie che insomma le occasioni non mancano. Immagino. Antonio, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a te. Ciao, alla prossima. Ciao. Ciao. Se ci metto l'iPad e stop, in 3 mesi ci sta tutto. Ale da Senica, ci sono quelli tecnologici che mettono solo l'iPod, l'iPhone, una foto del mio matrimonio, 2 CD, uno di musica classica, uno di musica jazz, una bottiglia di Amarone e un libro, tipo 100 anni di solitudine. Andiamo a Milano da Stefano. Pronto Stefano? Sì, pronto, ciao Matteo. Ciao, buongiorno, stai bene? Sì, tutto a posto. Bravissimo, dimmi invece nella tua scatola che 5 oggetti che ci metti. Allora, io metterei un moschettone da arrampicata. Sì. Poi le piume del mio cappello da bersagliere. Sì. Una bandiera della Russia. Sì. La mia agendina dove segno tutto e le chiavi della mia macchina che ci passo su le giornate. Fammi capire, allora, che lavoro fai per passarci le macchine e vedi tutte le giornate faccio, in macchina? Io diciamo, un lavoro commerciale, quindi giro molto. Sei un alpinista? Alpinisti, così. Sei un alpinista, sì. Giusto? Ma non capisco la bandiera. La bandiera russa, però. È la bandiera russa perché io, la Russia, diciamo, ho avuto un ruolo nella mia vita, mia moglie è russa, poi io vado spesso in Russia per lavoro, insomma, un ruolo importante. Venduto, grazie mille Stefano, buona giornata. Io, tra l'altro, sono alla Malpensa che sto partendo per Mosca. Ah, ok, fai buon volo allora. Ciao, grazie. ciao. Andiamo, Simona, sempre da Milano. Pronto, Simona? Ciao, sono Simona. Allora, benissimo, io sono Matteo, quindi vai. Ciao, Matteo. Io metterei un libro di Stephen King, La lunga marcia, perché è un autore che ho sempre disdegnato e invece quando l'ho incontrato mi è piaciuto molto. Cioè, non ti piaceva prima? No, proprio lo disegnavo come libracci, insomma. Ok, ok. Che... poi metterei un disco, un CD dei King Crimson Island, perché è l'ultimo pezzo di Una tristezza infinita. Sì. Poi metterei le foto delle mie due gatte, perché i gatti hanno accompagnato, accompagnano tuttora la tua vita? La mia vita. E poi il ventaglio della nonna, credo che non ci siano commenti da fare. E per ultimo una saponetta che parla di me, che uso sempre, il sapone d'Aleppo, che è una zona della Siria, naturalmente acquistato al mercato equo e solidale. Simona, grazie mille, che altro ciao. Dire? Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Iori scrive, 5 dischi metterei, Velvet Underground e Nico, Linea Gotica dei CSI, Sullo Zero di Giulio Casale, La Moda del Lento dei Baustelle e un recente album di Johnny Cash pubblicato postumo che è American Fifth. Una foto di mia moglie che prima o poi lascerò, il braccialetto del mio battesimo, un orologio meccanico, una matita e un coltellino svizzero. Fabio, andiamo però a Padova da Giorgio. Pronto Giorgio? Ciao Matteo, Giorgio, ciao. Ciao, dimmi subito quali sono le 5 cose che metti nella scatola. Un CD dei REM del sì. 1995, Monster, un libro, La cenere degli angeli di Marco Norbu, sì. Una bottiglia di sabbia della Sardegna, delle foglie d'acero, queste d'autunno, e il mio profumo, quello che uso. Che profumo è? Bene. Che profumo è, Giorgio, scusami? Ah, scusami, è l'Opium di Saint Laurent. Perfetto, grazie, grazie mille Giorgio, ciao, buona giornata. Grazie, buona giornata. Ciao. Oggi riprendiamo tutti, andiamo a Massimo, provincia di Varese. Massimo. Sì, ciao. Ciao, dimmi subito le 5 cose. Ciao, allora, innanzitutto due ricordi di infanzia. Una biglia, quelle da giocare sulla spiaggia con la figurina dei ciclisti. Sì. Figurina di Paolo Rossi. Sì. Rigorosamente con la maglia della nazionale. Sì. Un pacchetto di sigarette rigorosamente vuoto. Sì. Una penna. E? E un film che per me è poesia pura, che è Il favoloso mondo di Harry. Massimo, grazie mille. Ciao e buona giornata. Grazie a te. Ciao, ciao, ciao. Sono le 16:43. Abbiamo finito. Gli ultimi messaggi, purtroppo non li ho letti tutti e non ho potuto sentire tutti, ma magari li carichiamo un pochettino su Facebook. Se no, andate su Facebook e vedetevi tutti i commenti che sono arrivati. Una bottiglia di vino, un sigaro, un navigatore satellitare, un PC, L'ombra del vento, Gabriele e poi ancora I pattini per divertirsi, CD di Poison di Alice Cooper, L'amore perduto cavalletto a colori per esprimersi, Libro di Mann, La montagna incantata per intrattenersi e caffè, perché senza non vivo. Grazie a voi, grazie a Tiziano Bonini, a Paulino Corleoni e a Vittoria Mussini. L'ultimo messaggio arriva da Liam. Il mio diario, Dubliners di Joyce, una canna per chi ritrova la scatola, una canna per me, un pacchetto di Chesterfield Blue.